Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economica, in una puntata che avrà vedrà soprattutto un ruolo preponderante in quella che era stata la prima relazione del neo presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, oggi di fronte all'assemblea pubblica di Confindustria. Ieri aveva ricevuto l'87% dei consensi e oggi la cosiddetta relazione che possiamo chiamare programmatica, in cui molti punti sono stati toccati. Dico subito, poi ne discuteremo con i nostri ospiti, ascolteremo anche alcuni passaggi, dove forse l'elemento di novità e più che balza più agli occhi, assieme a tanti altri, è quello di parlare direttamente anche agli imprenditori, chiedendo agli imprenditori di fare la loro parte rispetto a una crescita economica definita ancora modesta. La nostra economia è senza dubbio ripartita, ha detto Boccia, ma non è in ripresa, è una risalita modesta, deludente, che non ci riporterà in tempi brevi ai livelli pre-recessione. E da lì tutto un insieme di ragionamenti, ma con un coinvolgimento diretto, un appello diretto e chiaro anche agli sforzi che devono fare le imprese, quindi sforzi per crescere, la distinzione tra le imprese che si sono messe in gioco e hanno innovato e quelle che non lo hanno fatto e non lo stanno ancora facendo, e appunto anche la necessità di non pensare che piccolo sia bello in sé, ma invece visto come una fase della vita dell'impresa. Si nasce piccoli e poi si diventa grandi, ha detto Boccia in un passaggio. Ascolteremo anche l'altro intervento molto applaudito, molto piaciuto, quello del ministro, del neo ministro alle attività produttive, allo sviluppo economico, come si chiama adesso, Carlo Calenda, e anche altre reazioni. Li commenteremo assieme all'editorialista Sole 24 Ore Guido Gentili, che saluto e ringrazio per essere nei nostri studi qui a Roma. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Come sempre il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, il numero 349-238-6666 vale anche per WhatsApp. Prima di tutto qualche aggiornamento però sulla borsa, che oggi è invariata, nel senso meno 0,00 in questo istante. Più invariato di così se muore. E i titoli, UbiBank oggi vede prevalere le vendite dopo la giornata di ieri, meno 6%, Unicredit meno 4,15%, Azimut meno 2,30%, Pop Emilia Romagna meno 1,80%, Banca Mediolanum meno 1,70%, Pop Milano meno 1,5% come Saipem. Chi va bene? Telecom continua a essere premiata anche, diciamo, per il non acquisto di Metroweb, più 4,33%, Tenaris, oltre che per le indicazioni arrivate ieri chiaramente dal nuovo amministratore delegato Cattaneo, Tenaris dicevo più 2,30, Fineco Bank più 1,70, Prismian più 0,80% e Steam Microelectronics pure. Tra gli altri temi che toccheremo chiaramente, oltre che la borsa, anche la Francia. Non riusciamo a fare molto altro oggi, ma insomma la Francia continua a essere a rischio paralisi, rischio in molti casi che è già realtà. Il ritiro della riforma del lavoro non è possibile, ma ha detto il premier francese Manuel Valls, siamo disponibili ad apportare delle modifiche e dei miglioramenti. È un parziale dietro front quello di Valls, che ha provato a fare a tre una linea dura all'inizio, perché siamo all'ottava manifestazione e le adesioni a corteo e scioperi sono andate via via aumentando. Il blocco, l'avete letto, di 6 delle 8 raffinerie del paese, da ieri anche i lavoratori di 19 centrali nucleari, 1600 stazioni di servizio su 12.000 hanno già esaurito le scorte, il rifornimento delle auto a seconda delle situazioni è limitato a 20 o 30 litri, quello dei camion a 40 a 150 litri. E il 31 maggio c'è lo sciopero delle ferrovie, il 2 giugno dei trasporti pubblici parigini, traffico aereo che si blocca dal 3 al 5 giugno, faccio notare che il 14 giugno il 14 giugno ci sarà un'altra manifestazione nazionale, ma dal 10 giugno partono gli europei di calcio. Io adesso lo dico con una battuta, non oso pensare cosa sarebbe successo a noi se avessimo bloccato il paese, legittimi gli scioperi, insomma, sono un diritto non sto commentando questo, per la riforma del Jobs Act a 10 giorni, nemmeno 2 settimane dall'inizio degli europei di calcio, immagini i titoli dei giornali all'estero e anche e soprattutto di quelli francesi. Allora andiamo rapidamente alle altre notizie in breve. Vabbè, alcune dichiarazioni che stanno arrivando dal G7, dove insomma, secondo il premier Matteo Renzi, il Migration Compact proposto dall'Italia ha tracciato la strada per le politiche sui migranti future. L'Unione Europea chiede sostegno e poi Renzi invece ha postato la foto dell'intervento ieri della Marina Militare Italiana, che ha salvato quasi tutti gli occupanti, il barcone che era, stava affondando, e ha detto, titolandolo, noi salviamo vite. E per quello che riguarda la, il prossimo G7, ha detto che Renzi ha detto noi proporremo Taormina, vediamo se ci saranno le condizioni logistiche per quello che sarà il prossimo G7 del 26-27 maggio 2017. E, restando sui temi europei, la Banca Centrale Europea oggi è stato oggetto di un intervento di Wolfgang Schäuble, il falco ministro delle finanze tedesco, il quale però ha detto una cosa tra virgolette a favore della BCE. Ha detto la Banca Centrale Europea ha un mandato per la stabilità dei prezzi e il problema di fronte a cui si trova è che deve fare una politica monetaria comune per 19 paesi, non può fare una politica solo per la Germania, né può fare una che mantenga stabile l'euro, anzi ne deve fare una che mantenga stabile l'euro e l'area euro. Schäuble è convinto che il Fondo Monetario Internazionale parteciperà comunque al pacchetto di aiuti di Atene. Poi ha detto sull'Italia, ha detto conosciamo la situazione dell'Italia, vediamo che compie notevoli sforzi anche per le riforme strutturali e sulle norme di insolvenza. Abbiamo l'impressione che l'Italia sia sulla buona strada e ne sosteniamo il percorso. E poi sulla Brexit Schäuble ha detto beh, insomma il danno sarebbe immenso per l'Europa e per l'economia mondiale, ma abbiamo un grande rispetto per gli elettori britannici e sono loro che devono scegliere, poi prenderemo atto della scelta, il mondo comunque non crollerà. Nel frattempo due dati sull'economia, quella britannica più 0,4% il PIL nei primi 3 mesi, in rallentamento rispetto allo 0,6% di fine 2015, in Spagna più 0,8%, è buono il tasso di crescita spagnolo grazie ai consumi più 1% e spesa pubblica più 0,8%, l'export invece è calato dello 0,5%. E invece continuano a non essere buoni i dati che arrivano sull'Italia, ieri abbiamo visto ordinativi e produzione industriale, oggi le vendite a dettaglio tornano a calare a marzo come valore, meno 0,6%, ferme rispetto a un anno prima. E Federdistribuzione dice che gli indicatori che stanno arrivando porterebbero a dei dati non positivi per i prossimi mesi, configurando così un 2016 al di sotto delle attese. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con il primo intervento da presidente Confindustria di Vincenzo Boccia, chiaramente di fronte a quello che si chiama, con una frase un po' fatta, il gota dell'economia, della finanza, della politica, non solo la parte confindustriale era presente, ma era importante capire anche appunto gli elementi programmatici di questo intervento e le novità contenute nella nuova presenza di Vincenzo Boccia. E allora parliamo di Confindustria. La nostra economia è senza dubbio ripartita, ma non è in ripresa. È una risalita modesta, deludente, che non ci riporterà in tempi brevi ai livelli pre-recessione. Le conseguenze della doppia caduta della domanda e delle attività produttive sono ancora molto profonde. Per risalire la china dobbiamo attrezzarci al nuovo paradigma economico. Noi, imprenditori, dobbiamo costruire un capitalismo moderno fatto di mercato, di apertura ai capitali e di investimenti nell'industria del futuro. Non partiamo da zero. Il passaggio è già in atto, però non ovunque e con la stessa intensità. Allora, Guido Gentili, da qui vorrei partire, perché qui c'è, diciamo, il cappello poi di altre cose che ascolteremo. Risalita modesta e deludente, non è ripresa. Questo, diciamo, a livello anche logico, giustifica poi un insieme di altri passaggi. Se tu sei d'accordo, farei ascoltare anche quello sulle imprese, così sì, commentiamo assieme, perché secondo me era importante per non dare l'impressione che Confindustria si rivolga sempre a qualcun altro, al governo, alle condizioni esterne, dire attenzione, diciamo, dobbiamo noi stessi essere protagonisti e farci carico di un cambiamento anche interno. La performance delle imprese, per analizzare la quale le medie di settore non hanno più significato. Ci sono imprese che vanno benissimo e imprese che vanno malissimo. Avevamo notato questa tendenza già nei primi anni 2000, dal 2008 è esplosa. Da un lato abbiamo imprese e imprenditori che hanno colto tutte le opportunità e hanno superato la crisi. L'hanno superata perché hanno innovato, hanno esportato perché hanno modernizzato la governance, hanno superato la crisi perché hanno creduto nelle competenze dei propri collaboratori, hanno aperto il capitale all'impresa. All'estremo opposto invece ci sono imprese e imprenditori che non hanno innovato e non si sono modernizzati. Fra questi c'è chi non ha retto e ha chiuso. E c'è chi si difende puntando solo sui bassi prezzi, tagliando anche le voci di bilancio strategiche come l'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione. È una reazione di pura sopravvivenza che nel medio-lungo periodo conduce a un vicolo cieco. In mezzo gli altri, che sono la maggioranza e che sono a un bivio, possono agganciarsi al gruppo di testa oppure scivolare in quello di coda. Come Confindustria e come Paese, il nostro compito è far sì che il maggior numero di loro imbocchi la strada giusta. Prima di chiedere agli altri, però, dobbiamo iniziare a indicare ciò che spetta a noi. Il nuovo contesto impone un salto culturale, un nuovo stile imprenditoriale. È una necessità di cui noi imprenditori per primi siamo consapevoli. Allora, Guido, partiamo dal cappello sulla condizione generale del paese. Devo dire che chi, ho visto che ogni tanto si dice Confindustria è filo governativa, non è filo governativa, mi è sembrata un'analisi molto, molto oggettiva e netta. Insomma, c'è una risalita, ma è modesta, deludente e non è ripresa. Sì, è stato molto chiaro, Boccia, è una relazione per molti aspetti innovativa, perché è asciutta, diciamo, nei toni, ma molto chiara nella rappresentazione dei problemi. E su questo, ad esempio, sulla crescita sì, crescita no, crescita è importante, no, e siamo in decrescita, eccetera, dice le cose come stanno, che appunto la crescita è una risalita, più che una ripresa, è una risalita modesta e deludente, e quindi prende atto della situazione. Poi ci saranno altri temi che ovviamente in termini politici faranno risorgere qualche polemica, perché ha parlato anche del referendum, sostanzialmente, pur rimandando a un appuntamento del Consiglio Generale di Confindustria al 23 di giugno, ma ha fatto capire che la Confindustria è sostanzialmente favorevole, diciamo, a votare sì al referendum, in particolare per quanto riguarda, ha sottolineato un paio di aspetti, cioè il superamento del bicameralismo e la riforma del titolo quinto della Costituzione. Quindi, però c'è da dire che è stato molto chiaro Boccia anche nel messaggio proprio rivolto agli industriali, agli imprenditori. E gli ha detto che devono cambiare, appunto, modello di riferimento culturale, se vogliamo. Quindi allargarsi, prendere atto di un contesto anche internazionale molto complicato, molto competitivo, e quindi di fare necessità virtù, cioè, e quindi crescere, e per crescere significa anche cambiare modello di riferimento finanziario. Gli ha detto, certo, dice, basta essere bancocentrici, cerchiamo altre strade anche nella ricerca dei capitali, muovetevi in questa direzione, non vi fermate di fronte alle difficoltà che questo può comportare in termini di salto generazionale, perché sappiamo che il nostro è un capitalismo sostanzialmente familiare e quindi ancora questo pone questi problemi. E poi secondo me è stata molto significativa l'affermazione quando ha detto, diciamo, noi imprenditori dobbiamo costruire un capitalismo moderno fatto di mercato, di apertura ai capitali e investimenti nell'industria del futuro. Certo. E quindi questo, diciamo, invito a guardare a un capitalismo moderno, che è un concetto che suona forte e importante. Sì, oggi. Due cose. Uno, non dimentichiamoci che Boccia è stato per anni, nel precedente mandato, presidente della piccola impresa di Confindustria. Quindi, esatto, a mio avviso, assume un ulteriore valore il fatto che lui dica: attenzione, adesso sto cercando di riprendere il passaggio. Piccolo non è bello in sé, è una tappa della vita di un'impresa, uno poi deve tendere a diventare grande. Cioè, si nasce piccolo e poi si diventa grandi, ha detto. Cioè, perché detto da chi ha rappresentato, esatto, le piccole, è una missione che piccolo non è male, ma è una fase della vita, non puoi restare a vita piccolo con queste sfide che ti arrivano da fuori di carattere dimensionale oppure di filiera del valore, perché uno può avere dimensioni piccole ma essere in una catena del valore, l'abbiamo spiegato molte volte, in cui ci sono soggetti grandi e allora a quel punto le dimensioni sono... Sì. Sono perfette. Vorrei andare, prima del meteo, su altri due elementi. Per quello che riguarda le banche, ma ha detto Boccia, non guardino solo i conti, non vengano solo nei nostri uffici, tornino e vengano nei nostri capannoni e abbiano la capacità di valutare i cosiddetti asset intangibili. Cosa sono gli intangible assets, come chiamano gli americani? Sono tutte quelle cose, dalla qualità dei dipendenti o dei managers, dal numero di brevetti registrati, i marchi, la relazione col territorio, la reputazione, che non è che si può mettere a bilancio, ma è fondamentale, e i rapporti con i clienti, i fornitori, i contratti, secondo livello, cioè elementi qualitativi che non puoi mettere a bilancio, ma che fanno la differenza tra un'impresa e un'altra. Poi sui sindacati, lasciando su, chiudendo con le banche, ha detto, per favore, con i profitti al minimo storico, lo scambio salario-produttività è l'unico praticabile, quindi la contrattazione aziendale, insomma, se l'azienda va bene e aumenta la produttività ci sia anche un legame con il salario, non giochiamo al ribasso, e sarebbe bello, sarebbe opportuno, ha detto Boccia, che le nuove regole fossero scritte dalle parti sociali, cioè Confindustria, sindacati, datori di lavoro e sindacati, non dal governo, che è stato un po' a rammarico nel salutare ieri, che ha avuto Giorgio Squinzi nel salutare i suoi anni di presidenza. Sentiamo questo passaggio di Boccia sui sindacati. Consideriamo da sempre lo scambio salario-produttività una questione cruciale e crediamo che la contrattazione aziendale sia la sede dove realizzare questo scambio. Gli aumenti retributivi devono corrispondere ad aumenti di produttività. Il contratto nazionale resta per definire le tutele fondamentali del lavoro e offrire una soluzione a chi non desidera affrontare il negoziato in azienda. Infatti, con i profitti al minimo storico, lo scambio salario-produttività è l'unico praticabile. Perciò serve una politica di detassazione e decontribuzione strutturale, senza tetti di salario e di premio, con lo scopo di incentivare i lavoratori e le imprese più virtuosi. Non vogliamo giocare al ribasso, vogliamo una più alta produttività per pagare più alti salari. Abbiamo messo in moto il cambiamento nella contrattazione con gli accordi interconfederali negli anni passati. Questi devono costituire la base per andare oltre. Per questo motivo avevamo chiesto ai sindacati di riscrivere insieme le regole della contrattazione collettiva. A malincuore abbiamo accettato la decisione delle organizzazioni sindacali di arrestare questo processo per dare precedenza ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali nel quadro delle vecchie regole. Adesso non si può interferire con i rinnovi aperti. Quando riprenderemo il confronto, avremo come bussola lo scambio salario-produttività e sarebbe opportuno che le nuove regole fossero scritte dalle parti sociali e non dal legislatore. Allora, sentiamo le guide queste parti sociali, perché come sempre hanno presenti anche i sindacati, poi diamo un commento complessivo. Chiaro quello che ha detto Boccia, avremmo preferito prima arrivare a una proposta congiunta, non ce l'abbiamo fatta, adesso le regole le sta scrivendo il governo, Però per le prossime volte, per i contratti non già in fase di rinnovo, sediamoci a un tavolo e cerchiamo di dare noi una risposta senza che intervenga la parte terza, che è appunto il legislatore o l'esecutivo. Le reazioni all'intero intervento, ascoltiamo in ordine quelle della segretaria della CGIL Susanna Camusso, e subito dopo ascolterete anche quella della segretaria della CISL Anna Maria Furlane e del segretario della UIL Barbagallo, tutte raccolte al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. La cosa che lascia più perplessi è le contraddizioni che contiene questa relazione, tra un'analisi giusta sul fatto che per crescere anche il sistema delle imprese deve fare delle cose, e poi tornare a una visione della produttività che invece è solo dedicata al rapporto salari e produttività, quindi un'idea da questo punto di vista vecchia che non si misura con il calo degli investimenti privati che c'è stato e il ritardo tecnologico del nostro sistema manifatturiero. Questa mi pare la contraddizione più evidente dentro una relazione che sicuramente ha alcuni toni nuovi importanti, penso al tema legalità, penso al tema dei migranti, da un'affermazione importante che è quella che hanno fatto tutte le organizzazioni sindacali e anche tutte le associazioni di impresa, che le relazioni industriali sono tema delle parti sociali e non del governo, con però un rinvio dell'affrontare i problemi. Guardi, io mi aspetto consapevolezza nei problemi del Paese, e tra i problemi del Paese c'è sicuramente la nostra capacità competitiva delle nostre imprese, ma anche il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi se partiamo dal lavoro e di come distribuiamo la ricchezza che si produce, credo che si troverà sicuramente anche questa volta una buona intesa. Siamo rimasti d'accordo che ci vediamo immediatamente per cominciare la discussione sul nuovo modello contrattuale di relazione industriale. Abbiamo apprezzato che hanno detto che non sono perché il governo non metta mano sulla materia. Abbiamo apprezzato che nell'interesse generale del Paese bisogna fare di più. Non sono stati citati gli investimenti che occorrono, è stato citato il problema del Mezzogiorno. Bene, ci sono tutte le materie che servono per confrontarci nell'interesse generale. Allora, così appunto il neo presidente Confindustria Boccia, poi Susanna Camusso della CGIL, e Anna Maria Furlan della CISL e Carmelo Barbagallo della UIL. Chi mi chiede, ma pubblicate il bilancio di... Sì, non noi, è un azionista del Sole 24 Ore, è l'azionista di maggioranza, ma non è... Non sovrapponiamo le due cose. Confindustria ha pubblicato il bilancio ieri, era online, se non ricordo male Guido, dopo la privata, quindi è consultabile online il bilancio 2015. Esatto, l'ultimo bilancio di Confindustria. Allora, le posizioni sindacali, perché poi insomma, che ne pensi il governo, che delle volte tende a dire che le parti sociali, datori e sindacati non hanno un grosso ruolo, e poi si è accorto che in realtà un ruolo ce l'hanno, se no hai difficoltà a tenere assieme un'economia così composita, complessa e variegata. Sì, tant'è vero che anche nelle ultime raccomandazioni della Commissione Europea, nel capitolo dedicato a questi temi, c'era un invito al governo a dialogare con le parti sociali su questo. Il che non vuol dire tornare alla concertazione con 100 delegati, vuol dire che però, insomma, chi rappresenta i lavoratori, rappresenta le imprese che danno lavoro, forse lo devi ascoltare, non solo, diciamo, di prammatica. Mi sembra che siano tutti d'accordo nel dire sì, facciamo anche la Camusso, detto facciamole noi le regole. Il problema è che poi non sono d'accordo sul contenuto. Beh, il problema, per esempio, la Camusso ha detto facciamole noi le regole, e questo è un problema, se vogliamo, di metodo. Poi sul contenuto e sui risultati che deve portare questa contrattazione permangono delle divergenze, in particolare con la CGIL, perché la leader Camusso ha parlato, diciamo, di analisi consueta, vecchia, sulla produttività, e questo invece secondo me è uno dei punti forti della relazione di Boccia, anche perché dice chiaramente che questo è uno dei temi che hanno, e non lo dice solo lui peraltro, cioè lo dicono la Commissione Europea, il Fondo Monetario, l'OCSE, che è il ristagno della produttività italiana, che è data purtroppo da ormai da una ventina d'anni, è uno dei, dei fattori che bloccano la crescita di questo paese e che rendono questa ripresa anche così debole. Quando... No, lo dico a tutti quelli in ascolto, cioè il tema è questo: la Confindustria vorrebbe che i rinnovi contrattuali, la parte più consistente, fosse fatta su base di secondo livello, cioè dell'azienda. Il contratto nazionale dà il quadro, la cornice, ma poi perché in questo modo si va a valutare azienda per azienda, dove c'è produttività e aumento quindi dei margini, si danno anche, certo, degli aumenti salariali. Un riferimento al mercato. Dove invece c'è una difficoltà di mercato, non si può imporre per contratto nazionale un aggravio di costi salariali. Ci fermiamo un attimo, perché poi ho ancora due aspetti. Uno riguarda i temi della politica, le riforme a cui tu già facevi riferimento, e l'altro invece riguarda la tassazione e l'illegalità, perché insomma sulla tassazione Boccia avrà fatto arrabbiare qualche categoria, immagino la Confcommercio, non si, poi sentiremo anche, no, sorrido perché quando dice spostare il carico fiscale alleggerendo quello sul lavoro e sulle imprese, aumentando quello sulle cose, e le cose si chiamano IVA in primo luogo, sì, ma non solo, e devo dire che in questo poi direte che la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario nelle ultime settimane hanno detto al governo italiano: ti avevamo detto come indicazione a diverso livello di intensità che la strada da perseguire era, tant'è che il Fondo Monetario dice tornate a pensare a una nuova tassa sulla casa che vi permette di alleggerire le imposte su chi lavora e quindi IRPEF e su chi produce IRAP e IRES. L'indicazione di tassare meno la parte produttiva e casomai tassare di più la parte improduttiva arriva da tutti gli organismi internazionali. Comunque ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità, ascolteremo chiaramente anche la posizione, diciamo, su questo di valutazione diversa della Confcommercio, e poi invece gli ultimi due temi, illegalità e Sud, e che Confindustria immagina Boccia, che nessuno sfugge che la sua nomina sia arrivata dopo una gara anche molto testa a testa con l'altro candidato Caravacchi, quindi ci si attendeva anche di sapere che ruolo immagina Boccia per la sua Confindustria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevo, altri due passaggi dell'intervento del neo presidente Boccia. Facciamo ascoltare anche le repliche. Abbiamo prima fatto sentire i sindacati e adesso faremo sentire anche altri aspetti. Dunque, per quello che riguarda la parte europea, la saltiamo, non perché non sia importante, ma non posso far ascoltare tutto l'intervento. Boccia ha detto no ai muri, la chiusura al Brennero vuol dire creare un infarto al cuore dell'Europa. È come bloccare un'arteria, causerebbe un infarto. Poco meno di 30 anni fa noi i muri in Europa li abbattevamo, e dobbiamo opporci con tutte le forze alla costruzione di muri che siano fatti di filo spinato, di posti di blocco, che siano tra Serbia e Ungheria o tra Austria e Italia. E poi sulla situazione europea ha detto attenzione, i cittadini hanno smesso di credere all'ideale dell'Unione. Poi ha elogiato i meriti della Banca Centrale Europea, aggiungendo però attenzione, la BCE non può fare tutto da sola e quindi occorrono le riforme anche dei singoli stati e l'impegno di tutti i paesi europei. Boccia però ha ricordato anche alcuni numeri che spesso noi ci dimentichiamo. Faccio un esempio, visto che mi scrivete sulla produttività, ragazzi, insomma, dal 2000 a oggi la produttività della media europea è cresciuta del 17%, in Italia ha fatto più 1%, in Germania ha fatto più 33%, in Spagna ha fatto più 34%, in Gran Bretagna più 43%, in Francia più 50%, da noi più 1%. Non è colpa degli dipendenti è il sistema che non va, quindi le imprese devono prendersi le loro responsabilità, ma anche in fase contrattuale non puoi far finta che questo sia un paese che ha la produttività della Germania, che ha appena fatto un contratto della Madonna per i dipendenti del metalmeccanico. E poi le riforme, dicevamo, l'impegno dei paesi europei, ma anche le riforme a casa nostra. E qui veniamo al tema più, non dico più atteso, ma dove c'era maggiore attenzione, è quello dei rapporti con il governo e le riforme che deve fare questo paese. Anche qui, come diceva prima Guido Gentili, molto netto il giudizio di Boccia, le riforme sono una strada obbligata. Molte e complesse, dunque, sono le azioni da intraprendere in seno all'Europa. E in questo processo l'Italia deve poter giocare un ruolo all'altezza della sua storia e dell'Europa che sogniamo. Questo ci obbliga a essere responsabili e a proseguire con forza sulla strada delle riforme. Perché non può esistere un capitalismo moderno senza una democrazia moderna, senza istituzioni moderne. Solo così possiamo tornare a essere un paese autorevole, capace di dialogare alla pari con gli altri, a Bruxelles come in ogni sede istituzionale. Per noi le riforme non hanno un nome, ma un oggetto. Non conta chi le fa, ma come sono fatte. Le riforme possono inaugurare una grande stagione della responsabilità, nella quale chi governa sceglie e prende decisioni e il consenso si misura sui risultati. Osserviamo un'Italia costituita da mondi che spesso non si parlano, mentre noi vogliamo che comincino a dialogare. Vogliamo che non ci sia più contrapposizione tra istituzioni e imprese, che la cultura dello sviluppo economico contamini l'amministrazione pubblica, la giustizia e che le decisioni e le scelte avvengano sulla base della reciproca conoscenza, che l'esercizio del diritto non sia più un'impresa. Per noi questo vuol dire un paese moderno, un paese civile. Allora, i rapporti con le riforme, con l'esecutivo, lui ha detto Boccia anche in un passaggio: noi non siamo qui per chiedere niente né per avere scambi. Non abbiamo intenzione di fare scambi con la politica. Guido. Sì, non vuole fare scambi con la politica, alla politica manda a dire che le riforme devono essere incisive, devono essere fatte in tempi rapidi, dice la sua sul tema del referendum e lo dice appunto chiarendo che la Confindustria da anni si batte perché la riforma che fu fatta nel 2001, che era quella del titolo quinto della Costituzione, fatta dal centro-sinistra, ricordiamo, esatto, in fase finale un pastrocchio di legislazione cosiddetta concorrente tra Stato e Regioni, che ha determinato solo, diciamo, un altissimo contenzioso presso la Corte Costituzionale, più che su chi deve fare che cosa tra lo Stato e le Regioni, e non si è fatto nulla ovviamente sul piano operativo. E, beh, questa parte la Confindustria l'ha sempre criticata, ha sempre auspicato che fosse cambiata, e questo principio c'è, ovviamente è uno dei principi fondanti che stanno nella riforma che il governo Renzi ha prospettato e adesso, certo, sarà all'esame. Questo è insieme quello dei percorsi legislativi, che sappiamo in Italia molto lenti e molto complicati, e su questo interviene col superamento del bicameralismo. Cioè del bicameralismo, lo snellimento delle procedure, esatto, legislative. Allora, ancora un passaggio dopo il traffico, legalità, illegalità. Boccia è imprenditore del Sud, quindi quando parla di illegalità o di una questione meridionale che è imbarazzante perché non si è risolto dopo 150 anni, a mio avviso va ascoltato anche come vita vissuta, perché lo diciamo spesso, fare impresa è difficile nel nostro paese, farla a sud è un atto quasi eroico. E poi le reazioni, a chi mi dice, guardate che tutti gli anni facciamo ascoltare le reazioni del Presidente di Confindustria, facciamo la stessa cosa anche con Confcommercio, il 31 ci sarà la Banca d'Italia e ascolteremo le dichiarazioni del Governatore Visco. Se è un programma di economia, si occupa anche dei soggetti e dei protagonisti dell'economia. Piaccia o non piaccia, c'è il traffico. Focus Economia. Chiediamo di spostare il carico fiscale alleggerendo quello sul lavoro e sulle imprese e aumentando quello sulle cose. Le risorse derivanti dalla revisione delle tax expenditure e della diminuzione dell'evasione devono andare all'abbattimento delle aliquote fiscali. Perciò l'evasione va monitorata attentamente. La competizione tra paesi si gioca anche sul fisco. Per questo è ottima la riduzione dell'IRES al 24% a partire dal 2017, che però non basta. Ricordiamo che l'Italia ha la non invidiabile anomalia dell'elevata imposizione locale sui fattori di produzione. Una imposizione che da noi, al contrario di altri paesi, è deducibile solo in minima parte. In generale, Chiediamo di sostenere gli investimenti con politiche di lunga durata. Il superammortamento, ad esempio, sta funzionando. Bene, rinnoviamolo. Da parte nostra siamo pienamente coscienti del vincolo stringente del debito pubblico e del fatto che non è con il debito che si costruisce una crescita duratura, ma nemmeno vanno bene politiche di austerità che assomigliano a un accanimento terapeutico. Se oggi la politica di bilancio in tutta Europa non è più restrittiva, lo si deve all'azione dei governi italiani e soprattutto di quello in carica. Voci autorevoli hanno suggerito al governo di ignorare ogni vincolo e di ridurre le imposte, anche in modo consistente con la legge di stabilità del 2017. Pensiamo che qualsiasi azione in aperta violazione delle regole comunitarie verrebbe sanzionata dai mercati prima ancora che dall'Europa. Non è ciò di cui abbiamo bisogno. Allora, dicevo, insomma, non è che questo possa far contento il mondo del commercio, però ci sono dei passaggi. Uno sulla tassazione, una linea già nota ma ribadita con forza, Guido Gentili. L'altro anche un riconoscimento al governo e l'azione fatta in Europa. Ho dato atto che, insomma, questa volta è la prima finanziaria, legge di bilancio in cui otteniamo qualcosa dall'Europa, non solo noi, vari paesi. Insomma, la tassazione è un tema delicatissimo e la Confindustria torna a chiedere, insomma, che si realizzi su chi il lavoro lo dà o lo produce, lo fa o lo dà. Quindi. Sì, ovviamente quando dice la parola cose, la tassazione sulle cose, spostarla lì, dice prospetta degli aumenti dell'IVA, ad esempio. Oppure potrebbe far riferimento, quando parliamo di cose, ci viene anche la casa. La memoria corre immediatamente all'immobile e alla casa degli italiani. Ora, io credo che poi mettere in cantiere una nuova rivoluzione sul punto di vista della casa, credo che sarebbe molto molto complicato, e io non credo che obiettivamente Renzi abbia in testa una simile possibilità. Diverso secondo me il discorso sull'IVA, dove noi sappiamo che per l'anno prossimo dobbiamo disinnescare le famose clausole di salvaguardia certo, per 15 miliardi, e non è da escludere che invece su questo terreno qualcosa si faccia in questo senso e che quindi le risorse vengano utilizzate per... Cioè, tu dici, siccome se non facciamo delle cose scattano 15 esatto. miliardi di clausole di salvaguardia che verranno... presi essenzialmente dall'IVA. Tu potresti anche dire va bene, accetto di beccarmi 7 miliardi, dico una cifra a caso, certo. Per carità, 7 miliardi di IVA in più, perché quei 7 miliardi mi servono per gioco sul fronte dell'IRPEF, del lavoro, per esempio, esatto. Abbassare l'aliquota media dell'IRPEF di 2-3 punti in maniera significativa. Adesso sto dicendo delle cifre a caso, ma era per far capire a tutti qual è il cosiddetto trade-off o lo scambio possibile tra IVA e IRPEF. Un'ultima battuta, perché siamo in conclusione della prima ora, poi commenteremo la borsa. Che tipo di Confindustria tu hai capito immagina Bocce, visto che poi anche questa c'era come domanda di fondo? Ma mi immagino una Confindustria che appunto fa un salto culturale da questo punto di vista, quindi una Confindustria più attenta al contesto generale e ai fattori che promuovono lo sviluppo dal punto di vista culturale e meno forse impegnata in termini di tira e molla con il governo o con le parti sociali per certi aspetti, quindi senza scambi impropri. Ecco, può sembrare colore, ma l'età conta, visto che anche Vacchi aveva un'età analoga, ma l'età conta anche, non perché... Però insomma, il fatto che sia un presidente relativamente giovane può aiutare? Certo, può aiutare, oltretutto è un presidente, diciamo, giovane, è un presidente che viene dal sud, piccola. Di una piccola impresa, senza che però abbia, come hai ricordato tu prima, abbia magnificato la piccola impresa per il solo fatto che lui è un piccolo imprenditore. Anzi, ha detto il contrario, ha pensato a un'ipotesi di farle crescere le imprese. E quindi credo che sia un fattore innovativo importante. Staremo a vedere. Intanto grazie a Guido Gentili, c'è il GR24, poi alcuni degli interventi a margine, penso al ministro Calenda, ha fatto uno dei discorsi più applauditi da sempre. Devo dire che Calenda piace, non piace solo a noi, piace anche agli imprenditori. E poi invece Cairo su Rizzoli Corriere della Sera, Della Valle su Rizzoli Corriere della Sera, la borsa e lo chômage, lo sciopero francese. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Vicinissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora concludiamo l'approfondimento sulla prima relazione del neo presidente Confindustria Vincenzo Boccia con le reazioni. Dicevo che come sempre in questi casi dopo l'intervento del presidente Confindustria ha parlato il ministro alle attività economiche e mi riferisco quindi al neo ministro Carlo Calenda, il quale con vari passaggi molto applauditi. Calenda, a mio avviso, tanto sapete che a me personalmente piace come competenza e come conoscenza dei temi, ha detto da oltre un anno e mezzo un ministro italiano non partecipa ad un consiglio sulla competitività, d'ora in avanti io prenderò parte a tutti i consigli nelle aree di mia responsabilità. E poi ha parlato anche del TTIP, quindi le trattative in corso con gli Stati Uniti sui nuovi scambi commerciali. Allora, sentiamo la parte che riguarda proprio come si possono vincere le battaglie dentro l'Unione Europea. Oggi a Bruxelles si tiene il Consiglio Competitività ed è un consiglio a cui non va un ministro italiano da un anno e mezzo. Per questa ragione con il presidente Boccia fino all'ultimo minuto abbiamo discusso se era opportuno per me essere presente qui o essere presente in Europa. L'idea del doppio debutto, il fatto che per la prima volta parlava lui, parlavo io, alla fine ci ha convinto che per questa volta dovevo essere qui. Ma è l'ultima volta. Da oggi intendo prendere parte a tutti i consigli nelle aree di mia responsabilità, così come ho fatto nel Consiglio Commercio. C'è un modo sicuro per perdere la battaglia in Europa e non essere lì a difendere le nostre ragioni. E voglio dire una cosa. Essere in Europa per un ministro non è una scelta, è semplicemente un pezzo dello stipendio che ci viene pagato e quindi non possiamo decidere se farlo o meno. Quando si è presenti i risultati arrivano. Penso al riconoscimento del market economy status alla Cina, sul quale il governo italiano all'inizio, in perfetta solitudine, ha avuto il coraggio di dire una parola chiara, da solo. E se oggi l'orientamento della Commissione appare finalmente appena più realistico, lo si deve anche a questo. Ancora, come sentite, Calenda ha uno stile molto diretto e non le manda a dire sulle falsità che ha ascoltato in questi giorni sulle trattative in corso tra Unione Europea e Stati Uniti che vanno sotto il nome di TTIP. Solo attraverso la costruzione di un'alleanza economica tra paesi che accettano le stesse regole e standard elevati potremo finalmente riprendere il timone della globalizzazione. Di questo progetto l'accordo transatlantico, il TTIP, è l'asse portante. Di questo accordo voi avete sentito dire qualunque cosa, che porterà gli OGM sulle nostre tavole, che toccherà i servizi pubblici, che toccherà la cultura. Sono falsità. Io, come Presidente del Consiglio Commercio, ho desecretato per la prima volta nella storia il mandato negoziale sulla base del quale la Commissione sta negoziando, e sono chiaramente escluse tutte queste materie. Ma c'è di più. Abbiamo sentito accusare il TTIP di un deficit di democraticità. Ora, sapete come viene approvato il TTIP, come verrà approvato, se mai verrà approvato il TTIP? L'unanimità del Consiglio europeo, 28 Stati membri, la maggioranza del Parlamento europeo, il voto favorevole di 38, non 28, parlamenti nazionali. Allora qualcuno qui mi può dare esempio di un processo più democratico? E non è forse giusto dire che dietro l'opposizione al TTIP, oltre le inquietudini dei cittadini verso la globalizzazione, che si possono capire, c'è una strumentalizzazione ideologica di chi attraverso il TTIP sta contestando le ragioni del libero mercato. E poi un altro passaggio sul come immagina Calenda, che appunto da poco è sbarcato, è tornato al ministero di cui era viceministro, ma nella carica di ministro, come immagina il suo ruolo e quindi difendere le aziende che operano in Italia a prescindere dalla nazionalità e dalla proprietà. Stiamo cercando di avere politiche che siano neutrali. L'idea che siamo noi a indicare i settori di specializzazione italiana è un'idea folle, ok? Ve la ricordate la storia della chimica? Come è andata a finire la storia della chimica? Allora il tema qui è un altro. Il tema è rafforzare gli elementi che sono orizzontali a diversi settori e poi sarà il mercato e sarà la vostra capacità a definire l'orientamento di specializzazione italiana. E io mi sento piuttosto tranquillo. Un'altra cosa importante da dirvi, aumenterò l'impegno per l'attrazione di capitale di crescita e investimenti diretti esteri. E su questo punto desidero essere molto chiaro. Per me un'azienda è italiana quando opera in Italia. La proprietà dell'impresa riguarda l'imprenditore, l'attività di impresa riguarda anche la società. Io non devo difendere l'italianità delle imprese, io difendo le imprese italiane, che è cosa ben diversa. No, sto zitto perché siccome sono d'accordo con su tutto poi divento un filo Calenda. Allora, poi Calenda ha promesso presto un piano della revisione degli incentivi alle imprese, ha detto Calenda: ho intenzione di verificare ogni singolo incentivo erogato per capire quali sono stati i risultati raggiunti in termini di soddisfazione dei clienti e di impatto. Vorrei far sentire un ultimo passaggio di Calenda, è quello che riguarda il rapporto, diciamo, tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e mondo delle imprese, perché dice Calenda: il rilancio dell'economia non può partire da circoli illuminati chiusi nelle stanze di un ministero. Il problema è che abbiamo poche aziende che esportano, e lo vedete dove? Nel grado di internazionalizzazione dell'economia italiana, che è 15 punti sotto quello della Germania. Guardate, tutta l'Italia può essere letta a luce d'ombre per il semplice fatto che, come ha ben detto Enzo, è spaccata a metà tra le aziende che ce la fanno e le aziende che non ce la fanno. E una delle discussioni più ridicole che si possano fare è sul fatto se la ripresa è una ripresina, una ripresa a metà, un rallentamento, ma c'è un dato, ed è il dato. Noi non siamo dove dovremmo essere, e finché non siamo, non saremo dove dovremmo essere, il senso dell'urgenza non va perso per nemmeno un secondo. Io sono sempre stato un offertista, e per questo anche forse come politico non andrò da nessuna parte. Penso cioè che vada rafforzata la capacità dell'impresa di competere, perché da lì c'è l'aggancio alla domanda internazionale. La politica industriale è una politica che si fa per le imprese e con le imprese. Non esistono, ve lo posso garantire perché adesso sto lì, circolo di illuminati chiuse nelle stanze di un ministero che definiscono il percorso di rilancio dell'economia scegliendo settori ed interventi. Questa idea sarebbe comica se non fosse stata regolarmente praticata in Italia in un passato neanche troppo lontano. Allora, le reazioni, i sindacati li abbiamo già ascoltati, due commenti di peso sulla relazione del neo presidente di Confindustria Boccia. La prima è quella del presidente Eni ed ex presidente Confindustria Emma Marcegaglia, microfono alla nostra Alessandra Schepisi. Mi è piaciuta intanto tutta, mi è piaciuta la visione a medio termine, l'attenzione alle riforme istituzionali, alla produttività, all'Europa, quindi ho trovato una bellissima relazione, alta, forte, che rappresenta proprio il punto di vista e la cultura di Confindustria di sempre. Riforme istituzionali, chiaramente richiamo la necessità di farlo, l'impegno per l'Europa, l'impegno sulla contrattazione a livello aziendale, quindi l'ho trovata veramente molto bella. E un altro commento di un altro ex presidente di Confindustria, attualmente presidente della BNL, Luigi Abete, sempre, no, anzi in questo caso al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Sulla contrattazione aziendale ormai la posizione è chiara da parte del mondo dell'impresa, quindi bisogna soltanto trovare il modo di. Sul piano delle riforme istituzionali, lui ha giustamente lasciato al Consiglio del 23 la posizione formale di Confindustria sul referendum, perché opportunamente non è intervenuto in questo momento in cui la sua posizione poteva essere, come dire, mischiata nel dibattito amministrativo. Ma ha ricordato una cosa storica: il Confindustria dagli anni 90 è a favore della modernizzazione, della governabilità, è contro il bipartitismo, e quindi è inevitabile che tutte le spinte e le manifestazioni istituzionali che vanno in questa direzione non possono che essere condivise. Adesso andiamo sul traffico, poi la borsa, e ci spostiamo a Parigi. 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, la borsa oggi vi accontentate di me, invariata la chiusura di Piazza Affari, poco fa era 000, adesso ho fatto più 009, Parigi più 069, Francoforte più 066, Londra anch'essa invariata, il Dow Jones in questo momento meno 0,24%. UBI Banca meno 6%, oggi deboli alcune banche, soprattutto per un bilancio spagnolo, mi riferisco al Banco Popolare in Spagna, è arrivato a perdere il 23%, UBI la peggiore nonostante abbia smentito l'interesse per Veneto Banca, poi Unicredit ha perso il 3,80%, POP Emilia Romagna il 2%, Mediolanum l'1,70%, come la POP Milano. Chi si è mosso bene? Telecom Italia, mercato apprezza che non debba più correre per comprarsi Metro Web, più 4,14%, Tenaris più 2,31%, Fineco Bank più 1,40%, ST Microelectronics più 1%, Monte dei Paschi più 1%, CNH più 0,80%, come Enel e Mediaset. Intesa San Paolo guadagna lo 0,70%, come Luxottica. Tra i titoli, non tra quelli principali, segnala Autogrill meno 4%, è uno dei peggiori oggi, il mercato non apprezza, diciamo, che si allunghino i tempi per eventuali ipotesi di alleanze, e invece il titolo Rizzoli Corriere della Sera resta sopra il livello dell'offerta, non solo quella di Cairo ma anche quella di Bonomi. Di questo ha parlato da un lato Diego Della Valle, azionista del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, lo ha fatto oggi a margine del Luxury Summit al Sole 24 Ore, dicendo: beh, per la prima volta vediamo una Rizzoli contesa attraverso un'operazione di mercato. Oggi c'è un'azienda che ha dei problemi che gli arrivano da una gestione passata che non possiamo definire delle migliori, senza voler far polemiche. È sul mercato e interessa, per fortuna, a un sacco di gente. Quindi non è buoni contro cattivi, grandi contro piccoli. Questo è il mercato. A me interessa che questa azienda vada bene, perché ci lavorano 5.000 persone, e che prenda una strada che gli dia un'indipendenza vera futura, e con una classe di giornalisti che non venga in nessun modo influenzata da nessuno, tantomeno dagli azionisti. Se ci sono questi due presupposti, io rimango Rizzoli in eterno, se qualcuno più bravo non fa delle operazioni finanziarie che uno non vuole seguire, altrimenti vado. E poi Cairo, Urbano Cairo, il primo a lanciare un'offerta sulla Rizzoli, a margine invece dell'assemblea di Confindustria, ha detto al microfono la nostra Alessandra Schepisi: insomma, le nostre proposte tra la mia e quella di Bonomi sono diverse, due cose completamente diverse, io offro condivisione, agli altri solo l'acquisto. La nostra offerta è molto diversa dall'altra. L'altra è un'offerta dove ti dicono: benissimo, io ti do 0,70, punto e basta. Tacci di azioni, noi paghiamo, a posto. Nel caso nostro, della Cairo Communication, invece, noi chiediamo di cambiare le azioni RCS con azioni Cairo. Un'azione, se ha un valore, e magari anche sottovalutata, poi tutti dicono così, ma insomma, se un'azione ha un valore è come se fosse cassa, non è che ci sia differenza, no? Mi sento di combatterla. Poi dopodiché l'offerta c'è, è una bella offerta, è un'offerta dove, ripeto, la cosa buona è che noi teniamo l'azionista RCS che cambierà le azioni, parteciperà alla ristrutturazione e alla creazione di valore. Nell'altro caso invece gli vengono pagati 0,70 centesimi, punto e basta, finito. È un'offerta che la Consob ci deve approvare nel giro dei prossimi, credo, giorni. Una volta che ci sarà l'offerta, avrò la possibilità di poter parlare di questa nostra offerta e di raccontare e spiegare agli investitori eventuali che avessero azioni RCS da consegnare all'offerta qual è il piano industriale che noi abbiamo e perché, diciamo, noi riteniamo di poter creare del valore con questo piano industriale. È un'offerta, diciamo, che noi facciamo per far sì che tutti coloro i quali hanno già azioni Rizzoli continuano ad avere parte di questo progetto, concambiandole con azioni Cairo, ma partecipando a quella che è la creazione di valore. Nell'altro caso è un'offerta diversa, è un'offerta in cui ti dicono: dacci le azioni, te le paghiamo, punto e basta. Allora, usciamo dai confini nazionali, ma per poco, nel senso che andiamo oltre Alpe, come si dice, in Francia, dove oggi, da quello che ho capito, ma chiedo conferma a Marco Mussanede, Sole 24 Ore, in collegamento da Parigi. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Il premier Valls, dopo insomma, 8 manifestazioni di sciopero, sta iniziando, non dico a cedere, ma ad aprire alcune modifiche. Ha detto un ritiro della proposta della riforma del mercato del lavoro non è possibile, ma possiamo pensare a modifiche, a miglioramenti. Cos'è, una parziale retromarcia o semplicemente prendere atto che non si vuole andare a uno scontro a 2 settimane dagli europei? No, io non credo. Io credo che il governo sul fondo della legge, in particolare sul tanto contestato articolo 2, cioè sulla valorizzazione degli accordi di impresa, è terra duro. Penso che non abbiano molte alternative, perché è vero che siamo alla vigilia degli europei e bisogna cercare di far sì che il paese funzioni. Però è anche vero che l'obiettivo, lo scenario politico di Hollande, del presidente Hollande e di Valls, è quello delle presidenziali di maggio l'anno prossimo. Un ritiro della legge o una sua, sostanziale modifica che la svuoti dei suoi punti più rilevanti, mi sembra abbastanza improbabile, perché sarebbe un modo per alzare bandiera bianca e per perdere quel poco di credibilità e di consenso che ancora resta al presidente e al premier. Sarebbero mesi terribili. Quindi no, io credo che il governo terrà duro. Dopodiché Valls, che è un personaggio piuttosto rugoso, piuttosto rigido anche nelle sue comunicazioni, nelle sue espressioni relazionali, ha forse ritenuto che oggi in particolare, che è appunto l'ottava giornata di mobilitazione, non fosse il caso di mettere della benzina sul fuoco. Però non credo che ci sarà un passo indietro, una retromarcia del governo. D'altro canto, lo stesso Valls, pur parlando di possibili correzioni, teniamo presente che delle correzioni ci saranno, perché il testo ora va al Senato verrà completamente rivoluzionato, poi deve tornare alla Camera, quindi comunque dovrà essere rilavorato inevitabilmente. Però è stato molto chiaro sul fatto che appunto che non ci sarà il ritiro della legge, che questo famoso, ormai famoso articolo 2 non verrà toccato. Modificato. Scusami Marco, per concludere, però tutta l'ondata di scioperi annunciati, perché se ho ben capito i ferrovieri sciopereranno, dunque hanno rivolto appelli ai scioperi e va bene. Poi sì, mercoledì c'è uno sciopero, il problema, ci sono alcuni scioperi annunciati da alcuni sindacati, in particolare sicuramente un sindacato molto forte che è la CGT, sindacato vicino al Partito Comunista, che ha proclamato uno sciopero a tempo indeterminato a partire dal 31 maggio nelle ferrovie e a partire dal 2 giugno nei trasporti pubblici parigini. Il problema è quanto poi questi scioperi verranno effettivamente seguiti, il governo chiaramente punta sul fatto che sul medio periodo il movimento e la mobilitazione si sfalderà. Va detto che in effetti oggi, che era una giornata di test importante, se è vero che a Parigi c'è stato un lieve aumento della mobilitazione, cioè della partecipazione al corteo, siamo passati da circa 15.000 a circa 20.000 persone, però non c'è stata la paralisi del paese annunciata dalla CGT. Addirittura il problema della penuria di carburante si è un pochino ridotto, cioè il numero di stazioni di servizio a secco sono 1 su 5 rispetto a 1 su 3 dei giorni scorsi. I famosi tagli alla fornitura di energia elettrica grazie allo sciopero nel centrale nucleare non ci sono stati. Gli autotrasportatori non si sono fermati. Anche l'agitazione nelle ferrovie, che pure oggi era prevista in concomitanza con l'agitazione, è stata più bassa delle settimane scorse. Quindi in realtà, come dire, la partita mi sembra ancora molto aperta. Sì, è chiarissimo. Purtroppo devo chiudere, Marco, ma è chiarissimo il tuo ragionamento, perché insomma arriva una mezza apertura da Valls, cercare di moderare i toni e i termini anche, però vedremo se poi la forza del sindacato sarà quella di bloccare realmente un paese, anche perché tu ricordavi i principali scioperi annunciati, ma c'è poi i piloti dell'Air France per il 1 giugno, i taxi che minacciano anche loro lo sciopero. Ti riavremo in collegamento, grazie intanto a Marco Mussanè in collegamento con noi da Parigi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.